Certo, chi sai che segna a dire tutte le cose che ti chiedo, a Romanco ti fai una cultura. Allora, se tu te ne segni a Romanco la puoi tirare a mente le cose, no? E ti fai una cultura di tutte le cose che dico io, eh. Sì, vabbè. Da te le segniamo, ma te sì. Certo, tanto. Cosa vuoi fare? Anda a mandare anzi, e boh. E ci vediamo così. Al prossimo anno. Davvero, mi. Nel 2024, gatta. Ma tu immaginaggi, gatta, non ti sei mai arrivati. È male, vecchio, da parte mia avevo il noise blank inserito però per la macchina, quindi Antonello me lo rovinava appena appena in modulazione anche per quello. Ah, così è? Sì, perché questi sciabbi dati della Presidente hanno, sì, c'è bello, smite la lancetta illuminato, il display LCD illuminato, i tastini illuminati, però la serigrafia non è illuminata e non si vede nulla, non vedi nulla, non vedi le scritte dei tastini vari delle manopole, capito? E c'è anche la luce accesa, proprio si vedono veramente poco. Si sono persi, bastava mettere un LED schifoso in più, due al limite, e mi illuminavi la serigrafia dietro. E tu vuoi troppo, Marco, cata, già ne vuoi poco di roba. Sai cos'è? Io sono abituato a quello lì, 5555, quanti 5 ha, che almeno ha tutto il frontalino retroilluminato, è spettacolare. Vedi tutto bene, sia di giorno che di notte soprattutto. E tu usati quello, cosa te ne usi, cosa ti usi questi President scaffanti? Sì, ti ho detto che era fermo dalla scorsa estate, non questa, l'altra, lo dovevo fare lavorare, se no qua si inchioda tutto, anzi meno male che si è acceso. Per quanto siano nuovi, questa roba è delicata, se non la usi si sciabilleggia, vai Tore. Ah, io quello che ho io, Presidente, già andava in questi commenti, va benissimo, lo ascolti bene, no, mi ascolti, quindi funziona che è un amore. La voce, sì, la voce è la tua solita, invece quel Presidente con le bande laterali, che se vogliamo è il più completo di tutti, è il più piccolino di tutti, il più compatto, il più completo, c'ha le bande laterali, bla bla bla, è quello che uso meno, non lo so perché. È così, vabbè, vuol dire che sa che c'è Tore, io ne ho perso il conto di quanti ne ho, e quindi ogni tanto ne trovo di qualcuno in qualche cassetto e li devo far girare tutti, capito? Tu ci pego in mezzo a farli girare tutti. Tu dali a me, ne faccio girare io. Guarda, questo Natale ci siamo andati vicini, ma se crepo lascio uno scritto che almeno tutta la sezione radio te la prendi tu. I baracchini, tutti portati, i mazzi di Baofeng, di la mala sorte, tutta la sezione radio, però devo fare uno scritto di in vita, se no quando crepo addio, mi si buttano tutto nei cassoni più vicini. Anzi, mi fate qualche incursione se mi leggete sul giornale, guardate tutti i cassonetti del normale secco che troverete delle meraviglie, e non solo in campo radio, perché qua sono pieno di roba. No, fai il testamento, che sennò il maresciallo butta via tutto. Sì, Natale, garantito, sia dove si crepare, neanche nel sonno, no, perché ormai avete visto gente giovanissima, sana, è morta improvvisamente, chissà perché, dopo questi strani vaccini, vabbè. Quella butta veramente tutto, in tutti i campi c'è una marea di roba, sembra la casa di un ricettatore, o sembra la GBC ormai, tutto scatole ovunque, di roba nuova. E infatti tu avammi, ti buono in che mi fai un iscritto, mi dai tutto a me. Facciamo il rogito, dai, lascio la parte sezione armi. tra virgolette a Natalino, stazione radio, Pomponio, che gli avevo detto da tanto, e poi la roba da sub, le canne, ormai mi sono messe male, quelle non valgono niente. E poi devo fare la Cernita, c'è tutta la sezione Gianna-Giubbogo di roba da campeggio. Cioè, da aprire un campo nomadi neanche per quella roba lì. Mi ero preparato a peggio, non si sa mai, con tanto di scorte. Vabbè, non posso dire niente di questo. Ascolta a me, e se vorrei Natalino, a chi lo lasci? A Marco. No, Natalino non so se abbia preferenze per le radio. Oh, che poi c'è sempre questa usanza, appena crepa un CB o un radioamatore, soprattutto un radioamatore, tutti quando corrono a fare le condoglianze alle mogli, hai notato, tutti correndo a fare con la signora, la roba, cosa ne fa della roba? Natalino già mi ha capito, anche Pomponio mi ha capito. Beh, ti credo che ti ho capito. Infatti adesso scrivo uno scritto e lascio tutto a te, tanto muoio prima io. C'è un canale proprio che avete delle buone prospettive, eh? Buonasera. Ciao sì. Mi sta procurando la morte, c'è il mio canale, ciao ciao. Dino, poi ti chiedo il segnale com'è che ha avuto problemi in antenna. Sì, ciao. Ehi, vabbè, va bene, va bene. Aspetta, però ti metto 4 watt di strumento come nudo e crudo. 4 watt. Praticamente, non so, c'era le seguire ballerino pochi giorni fa e un po' è diventata elettricamente un po' lunga l'antenna. Non so se è il pasticcio di stanno tutto attorcigliando cavi su, non si sa, è una mia teoria, e magari sta cominciando a ossidarsi un po' qualcosa. Va bene, ben entrato, guarda, vado a bere e ti lascio in compagnia di Marino, Natalino, Pomponio, chi altro c'era? Non me ne ricordo. Marino, no, Marino non c'è. Ciao Tino, stato Tore. Oh, Tore Squalo, cioè. Meno male, meno male. Marco, il segnale è 95, perfetta. Ti sto ascoltando con una R5005, Va bene, per adesso è abbastanza stabile, voglio vedere il prossimo maestrale se si molla qualcosa, perché vuol dire allora che lì sta insorgendo qualche falso contatto, tipo che o si stanno isolando i radiali per l'ossido, oppure sta partendo tutta quella stagnatura che abbiamo fatto per la bobina, vabbè, quello si vedrà. Male che vada, c'ho la Venom nella confezione, provvisoria è quella. Va bene, riprendete, vai... Tore. E ho detto buonasera a Tino, non so, forse ci siamo soprammodulati. Ben sentito dopo di tanto. Ciao Tore, ciao. Ah, vabbè, io ci sono quasi ogni giorno, sono su un altro canale, però già sono sempre attivo qua in 27, e non so. Andale, ciao Carino e ciao Alessio, Pomponio. Ti ripeto, Antonella, lascia stare così, non toccare niente perché la radio ha migliorato tanto. Infatti già lo sto toccando, già a posto. Era un bel po' che non accendevo, è la verità. Quando l'ho acceso mi ha dato subito 50 di watt. Poi ha preso, gli hanno 6 sale, e 140. Quindi è stato tipo tu, mi ha detto. Ho preso abbastanza il watt e adesso sono da 30, salgo a 50 e qualcosa. Va bene, va bene. Ti devo fare una domanda. Un attimo sul 12. Ti devo chiedere una cosa. Scusate gli amici. D'accordo, io mi tengo di mano. Vabbè, non riprende nessuno. Natali. Beh, già chiuso avete. Ma l'antenna c'è ancora. Cosa è successo? Oh, ma siete tutti all'ascolto sul 12? Va bene. Tredici modulati. come? C'era la portante, Marco. No, no, ero io, scusa Natale, che non c'era più nessuno e come mai qua segna? Cosa c'è che non va qua? Mamma mia. Ah, ho messo... Ma... Vedi, vedi la vecchiaia carogna? Quello già lo so. Cioè, anziché mettere a manetta, siccome stavo facendo prove in FM, no, questo ne ha... Boh, 30, 35, 40... 35 dovrebbe essere. Stavo vedendo 1,25, adesso, per esempio qua, con 30... Fa che siano 35 watt. 1,25 di SVR. 1,25, cioè tra 1 e 2 e 1 e 3, io dico 1,25, che non è niente, cioè non lo prendo neanche in considerazione, conta che sono 35 watt, che non servono. Adesso per sbaglio avevo abbassato, ero a 2 watt, questi sono i 2 watt da strumento, non c'è trucco, non c'è inganno, per dire, per non durare la città. Però siccome io ho la mania della potenza, lo rimetto a 11 watt. Ecco qua, guarda che bello, così mi sentono oltre la landriga, capito? Sì, ma tu vuoi arrivare oltre la landriga, io non vado oltre. Con 2 watt dove vuoi andare? No, Natale, io sono mancato, sono andato in fretta in bagno a fare la pipì perché, ti spiego, per depurarmi sto bevendo quantità industriali di acqua naturale, non gasata, naturale, e non ne potevo più. Torno, tutti scomparsi, però stanno facendo delle prove, Antonello e Tino sul 12, volevo dire, e ho detto qua, ma siete tutti a origliare sul 12, ah? No, io già sono qua, non me ne sbatte niente di andare a origliare da altre parti. Perché tu sei silenzioso, sì. E tornano bene nessuno, allora ho fatto due prove di strumento qua. E va bene. Va bene. E che altro dire? Dite qualcosa a voi. Ma domani vedo se riesco a attaccare l'MC60. A quello là. Cancellare. E così almeno. Vediamo se suona le matracche. Ai, quanto mi fa male il braccio sinistro. La parte alta mi. Lo sento, che te l'ho raccontato, che stavo talmente male. Dovevo andare per forza in bagno nel cuore della notte, sono che mi reggevo a malapena il sonno, stavo strampando malamente, ho preso una bella botta, sono caduto, ho sbattuto contro qualcosa, non mi ricordo manco cosa e manco dove, però sicuramente il braccio sinistro e poi il corrispondente dell'anulare. Dietro il piede c'ha un nome o qualcosa che finisce illice, ollice, non so. Del dito, infatti è nero lì, un po' di travaso di sangue c'è stato, una bella botta l'ho presa. Cavolo, certo, quando non ti reggi in piedi è un casotto. Questo allora? Forse cos'è, loro dormivano, non le ho volute svegliare, ma giù mai mi poteva costare. Eia. Comunque tu adesso ti rilancio, non è che però sono stato male per la biuzia, qua è stata o influenza forte o intossicazione alimentare, c'è un volume di fitta e febbre a 40, qua sono stato malissimo che mai ero stato così male. E avrei preso colpo d'aria, avrei preso. Nulla, non stavo andando nemmeno in moto perché proprio per non prendere freddo in visione delle feste, cioè abbiamo cenato il 24 vigilia, mangiato bene, tranquilli, abbiamo giocato a tombola, le solite cose, poi all'alba cominciò a avere questo freddo, abbiamo dormito lì, no? Sempre più freddo, addirittura mi battevano, come sono alzato mi battevano i denti dal freddo, non riuscivo a stare fermo. E guarda, è brutto, ho fatto questo vomito gigantesco di tutto quello che avevo mangiato, ma uscire negli occhi me. Guarda, qual è, o è qualcosa che mi ha fatto male, però non la cena, perché tutti stavano bene, ma da prima, qualche piccola intossicazione alimentare, da prima mi ha beccato nel giro di così 24 ore, oppure influenza. Siamo rientrati, Sì, io stavate facendo prove, tant'è che qua era sparito, erano spariti tutti. Ho detto, sono andati tutti a fare gli orecchioni a Doris. No, vabbè, era per non disturbare qua. Mi sono spostato, chiedere un'informazione a Antonello, niente di che. Quindi mi sono spostato per non disturbare. Comunque Marco, se ti consola, 9.15 qua, con questa radio qua. L'altra era un pochino più tirchia. Però conta che qua sono 11 watt modulate, credo che siano 13 modulati fischiando, guarda, se ti metto i 4 fai il paragone, da 4 watt, da modulati. Sì, ma infatti io penso che modulati siano parlati, non fischiati, che la radio non si fischia. Ma sai cos'è? Se non fischio i 13 watt non me li dà a piena potenza. E ecco perché fischio, così poi non devo vederne 13. Scherzo, no, vabbè, solitamente così, no? Si parla. Vabbè, picco massimo lo provi così. Andame. Vai, fai girare, sei tu il caporuota qua. Io, no, chi era entrato? Era andato a Dino, era il caporuota, ma credo che... Vediamo, stai mangiando, stai cucinando, Natalizia ancora? No, non sto né cucinando, mi sta venendo il sonno e so che arrumba dalla banca. Ho detto che so che te ne beseggizzo. Natalia, allora se sei appoggiato devi mangiare? Mi sa di sì, perché è anche tardi che mi devo prendere delle pastiglie, ma la sorte. Oggi ho ceduto, se non mangio prima. Perché se no dopo devo aspettare troppo a farmi l'insulina, capito? Vabbè, dai. No, non ordino proprio a me. Io vi lascio e così mangio. Ci sentiamo alle prossime, dai. Angela, ja, vi ascolto comunque. 29. Sei buon comani, sì. Dobbiamo già essere come buon comani. Bello, mi correti per me. Ciao, ciao. Vuoi finire? Vuoi finire? Tutto a posto, ma una bomba. Non so se lì sono a posto da te, Sempre pimpante come sempre. Va bene. Andava bene, da. Sta funzionando tutta la grande. Vuoi finire? La tariva pa 1, 2, 4, 3, 6, 4, può comare. Vai, troioso. Ora ti credi, non lo so che sei marito di Concetta, Ora ti credi? Adesso lo dico a Concetta, così quando ti vede ti tira colpi di scoppa. Ma tu sai? Sì. Chi è? La delle strada lo picchio. Concetta, ma è vero che può comare tuo marito? No, anche tu lo sei. Non parli, Non parli, puoi parlare con uno, Concetta, Vai, troioso. È vero. Vabbè, dai. Buona cena Natali, dai, io sto facendo roba qua. Sto controllando un iPhone 6, che ha smesso di vivere, ma mi sa che è la scheda madre. Io vi lascio, mi ha fatto piacere ascoltarvi, dai, che devo mangiare. Ci sentiamo più tardi magari se ci siete. Ciao a tutti. E se non ci sentiamo, auguri a tutti quanti. Nessuno non ci apri! Natali, mi sto spostando, ragazzi, mi sposto un attimino. Ci risentiamo. Ciao, anch'io sto chiudendo che devo mangiare, ecco. Va bene, ciao Tore, ciao Natalino, dai. Ci sentiamo, riprendi, va. Sì, ciao Tore, dai, buon proseguimento, ciao Natalino. A cenare, fai tutto e ci sentiamo con calma. A Tino gli volevo dire, questi apparecchi qua, tipo il 5555, come si chiama, vabbè, anzi, quello è già più con comandi diretti, però anche qua c'è un menu, sotto menu, siccome io li uso a rotazione molto dilatata nel tempo, non faccio in tempo a ricordarmi come si fa, aziona una funzione, come si accede a un menu. In questo, si è capito, l'ho già dimenticato, quando a riprendere l'apparecchio lungo il cambio che faccio, no? Per usare tutto ho già dimenticato quello che dovevo ricordare. e poi c'era una rottura di scatola, vabbè che roba, ed è roba che si tocca poco, mi sa, quegli effetti tipo il bip, l'eco, altre cose, però sono postici, cioè o ne usi uno tutti i giorni e te lo ricordi a menadito. Vabbè. Allora, ti ricordi che non avevi detto tu per quanto riguarda il bip, come si cambiava la tonalità del bip? Adesso se tu me lo chiedi lascia perdere, ti posso dire di schiacciare quello per mettere il bip e basta, ma non mi chiedere come ho fatto perché non lo ricordo più. Tanto è vero che io ho il bip identico al tuo. Sì, mi ricordo, ma poi io ogni tanto mi divertivo a cambiarmi, o mettevo quello normale, Superstar, oppure quello tipo Colt, corto corto e alto di tono. Però anche quello però già è un menu, diciamo, si usa poco. Però vedi, tipo il President, quello con le bande laterali, quello è una maledizione. C'ha quattro tastini in croce davanti, ogni tastino c'ha quattro funzioni. Se lo tocchi per in un momento fa una cosa, se lo tocchi a lungo ne fa un'altra, se lo premi dopo il tasto F fa un'altra cosa, e un'altra ancora. E così per moltiplicano per gli altri tre tasti. Per carità, guarda. Ho capito. Vabbè. Ma io dal momento che ho fatto, come si dice, ho regolato l'eco, ho regolato il bip, non ho fatto altro. Tant'è vero, per l'eco mi ricordo che avevo segnato con un pennarellino indelibile quelli bianchi, in maniera tale che so che devo arrivare lì e mi fermo, perché sennò magari l'ho fatto troppo ripetitivo e non va bene. Va bene, allora, ragazzi. Mi sposto perché devo fare cose al computer, e niente, vi ascolto, sono in Corix, però devo fare cose al computer, quindi vi saluto, e niente, vi aggiorno gli auguri nel caso non ci dovessimo sentire, buon fine anno e buon inizio e tante cose belle, tutto quello che volete voi, vai, aspetto i saluti e poi vado via, ma vi rimango in Corix, vai Marco, di nuovo a te. Cappettino, anche per te gli auguri, buon fine anno e buon anno nuovo, speriamo che sia migliore del prossimo, lo dico ogni anno, ma qua sembra che la situazione precipiti, per carità. Va bene, siamo ottimisti, lo sai, io sono ottimista, poi no, mi senti nei passaggi facili ogni tanto, vabbè, lo stiamo facendo anche per scherzare. E sentiamo le prossime, passa più spesso, ok, noi siamo qua sempre. Ciao T, buona serata, buon tutto. Allora, ciao a tutti. Ciao Muccolo. Ciao. Chi c'è rimasto? Solo Luca qua, la pelina ha chiuso, Squalo ha fatto questa greca. E quindi Luca, e tu, già te la sei passata Natale, che avrei fatto famiglia fuori? La mia compagna, sì. Ma come giocare a me, che queste feste, voi, poco mi piacciono. Sono feste che a me proprio, guarda, fanno bene ai bambini, sono d'accordo per i bambini, guarda, sono felice per loro, ma non fanno per me, perché non me lo può fregare di meno. Sembra a cazzo che, non so come spiegartelo, comunque a me non piace. Io sono così lo stesso, non... Cioè, penso il Natale sia bello per i bambini, era bello per quando ero piccolo io, però francamente io pazienza non ne ho, la verità non ne ho, non c'ho nemmeno questa passione di seminare figli a destra e manca, non mi piace, non sono spese, sono preoccupazioni, sono responsabilità, io non ne ho mai volute responsabilità, sono sempre stato attento anche con le ragazze a non fare danni, giusto perché non volevo responsabilità, per fortuna è andato tutto bene e continuerò così. Sì, ma in effetti è così, non è da cui fa. Dai, quello di giorni ancora e poi fuori dalle valle. Arriva al 7, boh, siamo a posto. Sì, dai, guarda, tanto visto come sono stato male a Natale, meglio niente. Adesso lo stesso Capodanno, tutto a casa, disintossicare il fisico. Mangiare roba leggera, basta, non voglio sapere niente, speriamo che passi in fretta anche la Befana e poi si ritorna alla normalità quasi di tutti i giorni, alla squallida normalità di tutti i giorni. Sì, ma infatti, cazzo, regali, regalini, ci qua, dieci là, metti qua, metti là, lui, basta cazzo, ma sono un risotto in ammarco. Poi cazzo ho preso la chiave della macchina, anzi, non so se la sa tutto. Non so, manco uscito di casa, a casa mia non c'è, ho buttata, non lo so, non so che ce ne abbia fatto stacchiare, ne avevo solo una, dopo non ce l'avevo. Comunque, per farla breve, ho chiamato la casa della chiave, lì in piazza Salvatore Ruio, sono venuti a casa per rifarmi la chiave codificata a 150 euro. Oh, è un po' di rogna, da. E io cosa dovrei dire? Vabbè, poi ne parliamo con calma, dai. Il prossimo anno però ne parliamo con calma, dai, che adesso non aggiungiamo. Anche io mi devo aggiuffare al computer, a proposito, Settino me l'ha ricordato, devo stampare roba, devo fare scrivere recensioni, perché sennò quello mi sollecita. Come mai ancora non hai fatto la recensione? Quindi ti mettono in croce, vabbè. Poi deve arrivare il maresciallo a farmi, a lasciarmi un po' di spesa, il maresciallo sarebbe mia zia, la chiamiamo così perché mi fa trottare forte. E vai, ma se devi andare, ma qui già sono qua, fatto sta facendo roba, capito? Sono seduto un attimino, oh cazzo, aspetta un attimo, mi sta caricando il telefono, come mai? Lo porta da cinesi, ci fai vedere. È staccato il capo. Poi bene o male, vedo alla fine, vedo che qualcuno entra, magari non tutti i giorni. Gianni non lo sto sentendo più, almeno quando sono io che ascolto non lo sento più. Probabilmente sta ciuffando su quella chat di Cantoli, di. Già capito. Allora, indovinello, ho 6 candele, ne spengo 2, quante candele, quante me ne rimangono? Ne sei, ne spegni in teoria 4. Perché 4? Sempre 6 ne hai, scemo. 6 candele hai detto. Ho 6 candele, ne spengo 2, quante me ne rimangono? Uno c'è 4, ma si presume che siano accese le candele. Tutte 6. Aspettino, aiutami. Se ha 6 candele, sì, me ne rimangono, anche se ha spento o accese, sempre 6 sono. Penso, vabbè, io intendevo quanto me ne rimangono accese, amica. No, quante ne rimangono di candele, no, accese? Vabbè, quelle sono quelle domande così, un po' trabocche, non ci pensi, c'è un momento. Oh, comunque c'è Renga e Neck a Sassari. Renga e Neck per Capodanno, e dove? Vabbè, corro a vederli, è proprio, aspetta. Piazza d'Italia. Come tornavo, non so se va bene questa. Provati. Guarda un pochino, vai. Perché questa mi è più vicina al PC. Non è male, è potente, solo che ha un po' di. Marco, un po' di. Troppo toni alti, vero? No, bassi, io li sento un po' bassi i toni, un po' più cupi. Quindi devo sollevare gli alti? La sento un po' wow. Vabbè, ma lo facciamo. No, forse perché c'è una. Aspettatemi. Bene, guarda un attimino, ora ha cambiato. Meglio, adesso è più bilanciato. Oh, poi ti ho letto qua. 20 baracchini, 20 ricezioni diverse. Luca magari più costante. Sì, vabbè, no, ho cambiato solo mic, No, meglio. L'altro era come l'imbombante, proprio cupo, toni bassi. Quindi ci vogliamo un pochino più di alti con l'altro. Vabbè, però non posso. Diciamo la verità che questo è il 60, l'altro è un altro microfono, però sempre originale, diciamo, dai. Che poi secondo me la soluzione buona è l'equalizzatore, cioè non tanto aggiungere alti, quanto togliere i bassi in eccesso, tipo con quegli equalizzatorini, come si chiama quel microfono equalizzato? Qual è la Delta? O anche quello nuovo che fanno adesso, che c'ha tanti attacchi, già avete capito? Che c'è una marea di roba, di regolazioni, di processori. Sì, ho capito. No, vabbè, io lo posso fare tramite la radio, però non mi metto a toccare niente adesso. Preferisco cambiare direttamente il mic e basta. Andare, dai, se mi faccio qualcosa al computer, poi nel caso rientro. Sì, Luca, sacco anch'io, dai. Che tanto qua adesso mi devo prepararmi a mettere un po' qua la spesa a posto. Ciao Tino, ciao Luca, cuoretti, buona serata a tutti e di nuovo auguri, ciao. Veglia, auguri anche a voi, ciao ciao, rimane così. Veglia, dai, adesso mi continuo il lavoro che sto facendo. Adesso ci sentiamo, buon anno, ok, ciao, ciao Tino, ciao a tutti. Ciao ciao, ci sentiamo.